Ma che bel mondo di merda che vi siete costruiti, ma quanti complimenti che vi siete meritati. Allora eccoti seduto con le mani nei capelli che ti chiedi come mai anche quelli a cui volevi tanto bene sono pronti al tradimento. Come mai anche qui al centro, nonostante il tuo stipendio, non è più questa la vita che vi avevano promesso e i bisogni ed i diritti che vi avevano concesso restano solo baccarozzi e non andranno via perché lo sporco da cui vengono vi si è incrostato nella vita e guardate il vostro mondo come perde, come arranca, tutti quanti comandanti di una nave che già affonda. Ecco qua le vostre anime nell'inferno dei cialtroni a cercare nuovi trucchi, nuove giustificazioni. Vi chiederete come mai, come mai, come mai. Vi chiederete come mai, come mai, come mai. Vi chiederete come mai, come mai, come mai. Vi chiederete come mai, come mai, come mai. Vi chiederete come mai e perché avete rinunciato a difendere il futuro di ciò che vi è stato dato. E per questo i vostri figli non vi sanno rispettare, non conoscono il rispetto, n'hanno niente da imparare. Sempre allegri e pronti a tutto, alle 5 di mattina, imbottiti di pasticche, merendine, cocaina. Sono questi i vostri giovani, vi dovevano salvare. Sono andati fuori strada con la macchina del padre. Sono questi i vostri giovani a cui avevate insegnato i valori della pace e gli errori del passato. Sono questi i vostri giovani democratici, sinceri, rimbambiti da giochetti, puttanate, cellulari. Vi chiederete come mai, come mai, come mai. Vi chiederete come mai, come mai, come mai. Vi chiederete come mai, come mai, come mai. Vi chiederete come mai, come mai, come mai, come mai. I vostri figli, la vostra unica speranza, vi ripetono gli slogan di voi coglioni anni 60, i pagliacci di Indy Media, i nuovi rivoluzionari, tra black bloc e pacifisti e disobbedienti vari, sempre colpa dell'America per il nuovo partigiano. Ma poi i nemici sono questi, una lattina ed un panino, e allora guarda come frignano quando arrivano gli sbirri, sotto sotto, gratta gratta, sono loro i veri Yankee, sono loro il risultato del disastro nucleare, sono loro i veri figli di questa sporca falsa pace, con la faccia di Guevara e le bandiere arcobaleno, sono loro i veri figli del sogno americano. Vi chiederete come mai, come mai, come mai. Vi chiederete come mai, come mai, come mai. Vi chiederete come mai, come mai, come mai. Vi chiederete come mai, come mai, come mai. E intanto fuori dall'Europa, come i zombie di Romero, arrivano le masse senza soldi nel lavoro e poi da tutti i continenti che avete derubato, imbottito di stronzate e poi abbandonato, le masse impoverite, ingannate dall'astuzia di chi ha fatto del mercato la sua unica giustizia. Quelli mica giocano col videotelefonino, non c'hanno mica le lenzuola che ci rimbalza Coccolino, quelli mica hanno la mamma che gli prepara il caffè e latte, con il dolce e il cornettino, con la vestaglia e le ciabatte, con il padre antirazzista che porta a spasso il cane mentre sfrutta allegramente le puttane nigeriane. Altro che rapimenti in Sardegna, in Aspromonte, niente film anni 70 con banditi e finte bionde, quelli poche chiacchiere e se la Lega ce l'ha duro, quelli c'hanno solo i denti e te li cacciano nel culo. Vi chiederete come mai, come mai, come mai. Vi chiederete come mai, come mai, come mai. Vi chiederete come mai, come mai, come mai. Vi chiederete come mai, come mai, come mai. Vi chiederete come mai, ma noi non vi risponderemo. Veniteci a cercare, ma noi non ci saremo. Ecco che va in malora il vostro mondo degli uguali. E se tutto questo è bene, allora sì che siamo il male. Se parliamo di coraggio è perché siamo preparati a combattere per nulla, nelle strade, negli stadi, in un mondo di rovine destinato a rovinare, dando fuoco ai cassonetti quando arrivano i blindati. Quindi eccoti seduto con le mani nei capelli, senza soldi, senza storia, senza terra, senza figli. Non c'è un punto di ritorno in questa tua maledizione, non c'è un punto di raccordo e non c'è una soluzione. Questa volta non finisce, non arrivano gli inglesi, non c'è più una bomba atomica da tirare ai giapponesi. È la fine del tuo mondo, ma noi non ci saremo, e la tua triste storia falsa nemmeno la vedremo. Vi chiederete come mai, come mai, come mai, vi chiederete